vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 13 di Ratto di Campagna e Topolino di Città, il programma di Radio Big World che tenta di darsi un tono e per darsi questo tono tenta di spiegare ai campagnoli come noi, zozzi, ignoranti, bercioni, si fa saccioccia le scarpe, per insegnarci a comportarsi in mezzo alla città, in mezzo ai cittadini, in mezzo a coloro che vivono tra la cultura e il bel mondo, che di solito è boh, questi miliardari russi che comprano a delle cifre pazzesche della roba fatta dai cinesi a 10 euro. Ma anche questa è la città, lo abbiamo imparato. Io però non sono in grado di darvi alcuna indicazione perché di campagna sono e anch'io so brutto, zozzo, accioccio le scarpe, pertanto abbiamo necessità di qualcuno che determinate cose le sappia, le viva e che magari detti moda, e noi ce l'abbiamo, e la nostra guida all'interno del mondo metropolitano, ecco lei che mentre noi allevavamo i piccioni viaggiatori, lei già mandava le mail, Laura! Ciao, ciao! Tu sei brutto zozzo con le scarpe sporche di fango, allora io sono bella, pulita e con le scarpe di Prada, che però viene dal Valdarno, è la scarpa di Prada, quindi insomma, volendo. D'altra parte le mie scarpe sporche di fango sono delle Hogan, quindi più o meno facciamo a cambio. Laura, oggi sarebbe interessante cercare di scoprire qualcosa di più sul tempo libero dei fiorentini e in particolare il tempo libero che passano, insomma, uso il creolo, outdoor, fuori casa, fuori porta, direbbero a Roma. Però prima di chiedere quello che succede all'aria aperta a Firenze, mi viene da domandarmi. Abbiamo parlato, sappiamo che a Firenze il traffico è incredibile e che i problemi per trovare parcheggio sotto casa sono all'ordine del giorno, pertanto il tempo libero in qualche modo a Firenze è forse più sottratto che da noi dai trasporti e dal sistemare in mezzo di trasporto, cioè il parcheggio. Insomma, da noi in 5 minuti dicevo esco da lavorare e sono lì in città. A Firenze, questo significa che i fiorentini hanno meno tempo libero di noi. Quante obiezioni ti posso fare, carissimo? Primo, abbiamo fatto una puntata sui motorini, quindi il problema parcheggio è risolvibile con il motorino, che lo parcheggiamo ovunque. Ah, ho dimenticato. Secondo, il luogo di lavoro non sempre è nel luogo dove uno vive. Tu, carissimo, potresti dal Valdarno dover venire a Firenze a lavorare. Allora... ce ne tanti! Peggio che mai, dovete prendere il treno, i famosi treni dei pendolari, che forse, insomma, non li auguro a nessuno. Da, a parte gli scherzi, dipende dove uno vive e dove uno lavora. Poi, vedi, c'è chi lavora da casa, allora è tutto a posto. Il tempo libero outdoor è sacro. Bisogna in ogni modo cercare di trovarne il più possibile. C'era la mamma di un bambino che era giunta a questo patto con suo figlio. Vuoi stare un'ora alla televisione? 2 ore fuori a giocare, qualsiasi sia il tempo. Nel senso, un'ora al chiuso, almeno il doppio del tempo all'aria aperta. Geniale, geniale. Vabbè, noi da piccoli ci stavamo a prescindere all'aria aperta, non c'era nessuno che ci doveva obbligare, però adesso che molti bambini invece amano stare davanti alla televisione, ai videogiochi o insomma in casa, boh, l'aria aperta va imposta quasi, no? E anche i dottori lo impongono. A me personalmente non lo deve imporre nessuno, io appena posso esco, a me piace stare fuori. Comprendo il punto di vista, qualcuno mi ha anche detto sì, è vero, noi stavamo fuori tutto il tempo, ma l'ambiente in cui noi stavamo fuori non è l'ambiente di oggi. I pericoli, secondo questa persona, che avevamo da affrontare noi quando eravamo bambini non sono quelli di oggi. Mi domando quanto sia vero e mi domando quanto sia percepito e basta e quanto sia in realtà inculcato, per esempio, dai media. Però esatto. È un fatto, fuori ci si sta molto di meno e in particolare le nuove generazioni ci stanno pochissimo. E allora parliamo dei fiorentini che stanno fuori, e in città il posto che mi viene in mente per stare fuori par excellence è senz'altro il parco. Londra ha Hyde Park, dove ci sono quelli che montano sulle cassette della frutta e fanno il comizio, oppure il Central Park di New York con le paperelle che non si sa dove vanno quando gela il laghetto. A Firenze i parchi ci sono. Quali sono? Sono usati dai fiorentini? Sì, sì, sì, sì, per fortuna sono tantini, belli e usati dai fiorentini. Allora, io sono un po' di parte perché ho il giardino di Boboli a due passi, adoro il giardino di Boboli, che è definito un museo all'aria aperta, tanto che si paga per entrare, ma i fiorentini, previa esibizione del documento con la residenza, non pagano. Hai capito, te? Certo, te che sei di Montevarchi pagheresti, ben 7 euro. Però con questi 7 euro ci ha compreso anche il museo di Palazzo Pitti e non so quale altra attrazione fiorentina. Il giardino di Boboli è veramente un museo a cielo aperto, però ecco, è quasi solenne fare la passeggiata lì, lo devi fare quando hai proprio voglia di rilassarti, di pensare, di non sentire neanche un rumore, perché c'è un silenzio quasi surreale, ci sono degli uccellini che ti cinguettano sull'orecchio, potrebbe essere il set per un bel film. Però se vuoi invece scatenarti un po' di più, vuoi portare i figli, vuoi fare un po' di confusione con gli amici, vai alle cascine. Se vuoi pattinare, andare in bicicletta, insomma, alle cascine c'è un po' di tutto e di più. E lì è forse il parco per eccellenza del fiorentino. Trovi persone di tutte le età, dai vecchietti che fanno la passeggiata per mano, a un bambino che impara ad andare in bicicletta senza le rotine, come diciamo noi. Trovi i ragazzini con i rollerblade, i pattini con le ruote in fila, trovi vabbè, quelli che corrono ovviamente, quelli che camminano e basta, quelli che stanno sulla panchina a chiacchierare, trovi di tutto. Le cascine penso vinca per popolarità a Firenze come parco. Beh, il parco delle cascine era famosissimo, è famosissimo da tempi immemorabili, tanto che anche le famiglie granducali, per esempio quelle lorenesi, si recavano regolarmente alle cascine non solo per fare la passeggiata, ma per esempio andare a cavallo. Quindi mi confermi che a un certo momento le cascine rimangono ancora oggi per i fiorentini un punto di incontro e un punto per sperimentare un po' di campagna e di vita agreste, però oggi nel cuore della città, un tempo erano in periferia. Sì, sì, sì, confermo. In Svizzera, in particolare, o in certe aree della Svizzera, sono piuttosto malati di parchi, e addirittura a Basilea c'è un parco che è un ex cimitero e che è popolarissimo per fare i picnic, solo che ogni tanto spunta un femore o spunta un teschio. Anche a Firenze, mi auguro in posti meno estremi o meno macabri, ci sono le famiglie che tradizionalmente si portano dietro il barbecue, si portano dietro il tavolino e fanno un picnic nel parco. Ma le cascine no, forse è un po' fuori città, in un boschetto. Il posto per eccellenza dove vanno i fiorentini a fare il picnic è Vallombrosa, quindi ci avviciniamo un po' alle vostre zone, e anche per frescheggiare quando fa troppo caldo. Quindi non usa vedere dei fiorentini che, come succede in altri paesi, insomma, sono a magnare nel mezzo dentro delle Firenze, aiole. No, no, okay. No, no, questo no. Meglio, dai, già abbiamo i nostri problemi di di sarebbe ordine pubblico e degrado. Sarebbe un carosello, d'accordo. Nei parchi chi, per esempio nei film americani, vediamo che la mattina, praticamente all'alba, quando il sole non è ancora uscito fuori dai grattacieli, ci sono questi super corridori che corrono prima di andare in ufficio, e così come probabilmente ce ne sono la sera. Da noi usa andare a correre, insomma, i film americani li guardiamo moltissimo e usa andare a correre, boh, siamo in campagna, uno fa un chilometro e si trova in aperta campagna, va per un greppo e si allena tipo Rocky 4 in Siberia. Ma a Firenze dove vanno a correre i fiorentini? Sì, vabbè, ci saranno i parchi, ma poi che fanno? Si mettono a correre, a fare lo slalom tra i motorini e i tucani? Sì, sì, sì, vanno un po' ovunque. Allora, io quando li vedo, a parte dico, ma no, che voglia che c'hanno, perché sinceramente non è proprio la mia attività preferita. Allora, quando li vedo ho due o tre pensieri. Allora, la prima è, madonna, che voglia che c'hanno, questi bravi, comunque, sì, insomma, fa bene. La seconda è, perché devono venire a correre qui? Cioè, quando li vedo in mezzo al traffico. Quanto go il polmone? Glielo vorrei chiedere a volte, guarda, davvero. Perché li vedi veramente fare lo slalom tra i motorini? Che ne so, perché eppure il verde non manca, cioè alla fine non sarà un'area purissima, però ti fai due passi e vai davvero alle cascine. Ma ora ti ho detto le cascine, ti ho detto Boboli, ma ce n'è di parchi, c'è Villa Vogel, c'è il Boschetto, ci sono veramente tanti posti dove andare a correre. Allora mi piace immaginare che quel pezzetto che si fanno fra un motorino e una macchina è solo per arrivare a una destinazione un po' più verde, mi piace immaginare questo. È una via speranza. Per rimanere nella comparazione tra le grandi, grandissime città, quelle mediatiche, quelle che finiscono sui giornali o in televisione, a Milano i milanesi hanno il loro mare e si chiama Idroscalo. Ora, io non ci sono mai andato, non mi ci hanno mai portato, figurati, ho paura di Firenze, figurati Milano, che è 10 volte Firenze. Però in questo Idroscalo, da che ho capito, c'è una specie di lago dove ci atterravano questi aerei che atterrano sull'acqua, questi idrovolanti, e ora ci vanno a fare il bagno, ci vanno a fare il picnic. A Firenze, se si decide di rimanere in città, per esempio in estate, a fare il bagno, dove si va? Allora, non sai che negli ultimi anni è stata creata la spiaggetta sull'Arno, gli ombrelloni, i lettini, ma insomma, ecco, il bagno anche no, però c'è chi ci sta lì a prendere il sole, è molto carino la sera per prendere da bere, ci sono i barrettini sull'Arno, insomma c'è là una parvenza di mare, però insomma di notte, ecco, perché giorno vedi che il colore dell'acqua è un po' diverso. Allora, se vuoi andare a farti il bagno, allora, tempo fa, diversi anni fa, andava molto di moda il lago di Bilancino. Io una volta ci sono andata, però non mi è piaciuto. Allora dico, se mi devo fare 40 minuti di macchina, me ne faccio 50 e vado a Livorno e almeno c'è un bel mare. Perché bene, il bagno nel lago, insomma, c'è a chi piace. Che poi il Bilancino è veramente molto attrezzato, c'ha i suoi ombrelloni, le sue sdraio, le canoe, il surf, puoi fare tutti gli sport, insomma, però sì, rimane un po' più in zona, ma insomma è pur sempre un lago. E sa cosa c'è invece di molto carino? Il parco dei Renai, che è a Signa, c'è il laghetto e anche lì ti dà una parvenza di mare, ci sono varie attività da fare e quello sì, è molto bello. Però parli con un amante del mare, quindi tutto ciò che non è mare e che vuole assomigliargli per me è poco valido. E già che a questo punto, anche solo per trovare l'acqua, ce ne andiamo fuori da Firenze, perché dentro Firenze non ce n'è una agibile, perché o buttati in Arno, vediamo come ne riesci. Poi, oltretutto, più o meno in Arno, nel comune di Firenze, si recuperano più o meno una ventina di cadaveri l'anno, così uno è nell'Arno e si vede arrivare un corpo che galleggia. Stiamo fuori da Firenze. Aspetta, e le nutrie dove le metti? Nella pancia del cadavere, forse. Probabile. Restiamo fuori da Firenze e mi domando io come in determinati momenti dell'anno, quando anche da noi la gente tenta di abbandonare perlomeno il centro abitato, come e dove si va a cercare posti particolari che però non siano lontanissimi da Firenze, se no uno dice, sai, ma in Val d'Aosta. Ok, per esempio, in primavera una bella giornata, c'è il sole, la domenica libera, andiamo a fare un giro, andiamo a prenderci un bicchiere di vino, non lo so, andiamo a mangiare una cosa particolare che però è vicina a Firenze. I fiorentini di solito dove vanno? Secondo me in primavera è consigliabile rimanere a Firenze perché non è ancora il caldo torrido dell'estate e quindi Firenze offre tanto. Ci sono localini che vino, panino, ti invitano a passare delle belle ore fuori, se no c'è la schiacciata da mangiare a Chiesanova, che è alle porte di Firenze, che è famosissima e tutti i fiorentini vanno lì a mangiare la schiacciata, oppure anche dentro Firenze ci sono due o tre posti dove la schiacciata è perfetta. Sai che cosa? Le prime belle giornate ti invitano anche a vedere un po' di mostre, di opere d'arte, perché no? Le Ville Medice, puoi godere dei giardini delle Ville Medice quando c'è un clima primaverile, poi dopo d'estate fa troppo caldo, quindi primavera non hai che l'imbarazzo della scelta. Quindi i giardini delle ville oppure certi piccoli paesini o certi monumenti che sono dentro e fuori Firenze e che richiedono o che hanno le strutture anche per stare fuori sono visitati dai fiorentini. Sì, sì, sì, sì. Poi hanno appunto queste agevolazioni sui prezzi. Negli ultimi anni sono stati anche molto invitati i fiorentini a godere delle bellezze della propria città. Insomma, anche io ho fatto così, mentre fino a pochi anni fa avevo visto quasi più fuori che all'interno della mia città, cosa che insomma in molti fanno, perché ciò che è dietro l'angolo viene sempre rimandato. Dice, sì, vabbè, tanto è qui, ci andrò, insomma, io dietro l'angolo ho le Cappelle Medice, ho Palazzo Vecchio, ho la Galleria dell'Accademia, gli Uffizi, insomma, quando vedi le code di turisti davanti agli Uffizi e dici, ma... E sono qui, insomma, il museo più famoso del mondo è proprio qui. Insomma, ti senti anche un po' orgoglioso, eh? Sì, dai, ci vanno anche fiorentini. Molto spesso si vedono queste visite guidate che prima erano forse frequentate più dagli stranieri, adesso sono anche... ci siamo anche noi. Pensate, stanno cambiando i tempi, memorabili. D'altra parte, interessante il fatto che il fiorentino in primavera sì, se ne va a fare qualche gitarella, ma gli piace anche stare in città e c'ha pure gli sconti sulla roba da mangiare, perché va lì, parla fiorentino e quello gli fa lo sconto, oppure c'ha il biglietto della sovrintendenza scontato, o che ne so, il sindaco avrà fatto una sviolinata, mentre noi ce ne andiamo fuori dalla città, tipo in Chianti oppure nel Senese, raramente nell'Aretino, e lì ci pelano perché ci fanno dei prezzi che sono altro che da russi o da americani. Vedi quanto noi spesso campagnoli siamo all'opposto in senso speculare a quello che sono i cittadini. Però questa volta l'estate, il caldo torrido, una Firenze che è un forno tanto in centro quanto in periferia e i fiorentini che se ne scappano a trovare refrigerio. Ora, noi qui da noi abbiamo il Prato Magno, che è un po' la nostra Sierra Nevada, più o meno 1500 metri, e ci assiepiamo sui prati di questa montagnola. E i fiorentini? I fiorentini hanno il Monte Morello, scherzi? Pensi, siamo da meno? Monte Morello è un monte che, insomma, ti dà un po' refrigerio. Anche per la prima neve, si va tutti al Monte Morello, che è vicino, cioè se te non ti vuoi allontanare più di tanto, vuoi vedere la neve, vuoi portare il tuo bambino a fare una discesa con lo slittino, vai lì. Monte Morello è in provincia di Firenze? Sì, sì, è a comune di Sesto, mi sembra. Figurati, quindi vicinissimo. È vicinissimo, qui c'è tutto, c'è tutto. E il Monte Morello però non sarà attrezzato con impianti sciistici di risalita, baite o roba del genere, o sì? No, no, no, ci vai solo per fresccheggiare o per camminare. Molti ciclisti vanno perché insomma, fanno la pentata, eh. Sì, sì, sì, allora per sciare hai l'interlocutrice più ferrata che ci sia, perché sono un'appassionata sciatrice. Certo. Allora, sciare e sciare da Firenze. Allora, sciare da Firenze, l'Abetone è il comprensorio sciistico toscano più famoso, che negli ultimi anni ha avuto un bellissimo sviluppo perché hanno migliorato gli impianti, hanno migliorato i servizi e è comodo per noi. Ci vai in un'ora e ti fai delle belle piste che non sono chiaramente quelle delle Dolomiti, ma insomma danno soddisfazione anche agli sciatori più esigenti. Tu dirai c'è anche il Monte Amiata, ecco, io ti dico no, nel senso che il Monte Amiata c'ha sono due o tre piste. Allora, se vuoi imparare, vai pure al Monte Amiata, ti fai il campo scuola. Se vuoi andare con lo slittino, vacci pure. Questi sono i comprensori sciistici in Toscana. Il fiorentino a volte va anche al Cimone o al Cornalle Scale, che però sono già in Emilia Romagna, sono un po' più distanti della Betone. Ma non conviene, ora che la Betone è così migliorato, non conviene cambiare regione, perché il Cimone ha ancora degli impianti un po' vecchi, non è all'altezza. Sai che cosa volevano fare? Volevano fare un comprensorio unico a Betone, Cimone, Cornalle Scale, volevano unire Toscana e Emilia Romagna, ma chissà. Forse finiranno prima la tranvia. È probabile, non siamo in Trentino e in particolare tra i fiorentini e gli emiliani diciamo che i rapporti sono cordiali ma tesi, è una vecchia storia, vediamo anche nella politica, mettiamola così. Pertanto in inverno nelle strade che vanno in direzione della Betone, quindi del Pistoiese, piuttosto che quelli che vanno verso Siena / Grosseto, dove si trova il Monte Amiata, si riconoscono macchine di fiorentini, dice guarda quelli dalla città stanno salendo, stanno andando su alla Betone. Sì, ma poi sai, quando passiamo da lì, vediamo queste case sperdute, non tanto quelle nel paese, ma quelle lungo la strada, o qualsiasi persona mi ha accompagnato a sciare, con qualsiasi persona, cioè ci si guarda, madonna, ma te ci pensi che questi abitano qui, ma che fanno, ma ci abiteresti mai qui sperduto? No, la risposta è no. Firenze tutta la vita, insomma. Ringraziamo Laura per averci permesso di fare questo excursus su alcune delle attività del tempo libero all'aria aperta dei fiorentini. Laura, grazie. Grazie a te. Ti aspetto, metti gli sci che andiamo alla Betone. Vuoi passare prima dal Monte Amiata? Direi che andiamo col Tucano sul Monte Morello a vedere i fuochi di San Giovanni. Ok. Ringraziamo anche gli ascoltatori di Radio Big World, in particolare quelli che non sono né di Firenze né della provincia né del contado, perché probabilmente vi sembreranno buffe le nostre baruffette chiozzotte. In realtà questo tipo di rapporto tra campagna e città esiste praticamente ovunque, almeno nel centro Italia. E alla prossima fiorentinata! Olè!